Radio 24 Reportage. Il mondo tratta i bambini ricchi come fossero denaro, affinché si abituino ad agire come agisce il denaro. Il mondo tratta i bambini poveri come fossero rifiuti, affinché diventino rifiuti. E quelli che stanno in mezzo li tiene legati alla gamba del televisore, perché fin da molto piccoli accettino come destino una vita prigioniera. Diceva così Edoardo Galeano. A Mirafiori Sud hanno avuto una possibilità in più e così, grazie alla cooperativa che lavora nel quartiere, la televisione se la sono costruita e hanno lavorato fino all'anno scorso perché quella TV di quartiere diventasse risorsa, denuncia e speranza. Tanti anni fa i corvi erano tutti colorati. Queste che sentite sono le voci dei bambini di una quinta elementare che hanno scritto, disegnato, animato e interpretato un cartone animato dal titolo I Corvi. Papà, perché siamo così colorati? Noi siamo i discendenti dell'arcobaleno. Ecco perché siamo i più belli di tutti. Ai! Accidenti! Ma stai attento! Sognano di diventare grandi cuochi, di essere fumettisti, di avere una vita serena. Alcuni studiano, alcuni a 15 anni già lavorano, hanno amici, vivono nel quartiere e nel quartiere crescono, lontano dal centro di una città come Torino. E questo succede anche quando il tuo quartiere è dentro la città, nel centro della città. È la storia di Tariq, 18 anni, marocchino, che vive a Porta Palazzo, il quartiere abitato da nordafricani, dove spaccio e violenza sono all'ordine del giorno. Io sono Tariq, sono di Porta Palazzo, zona periferia centrale. E qual è il problema di Porta Palazzo per te? Il problema sono gli affitti, le case decadenti, i controlli comunali che non esistono per quanto riguarda soprattutto le case, case in cui risiedono 15-20 persone. Se lo posso vedere dal mio punto di vista, Porta Palazzo può essere un buon posto per un ragazzo che vuole crescere come un marocchino. È visto da fuori come un marocchino e restare fino all'età di 30-35 anni un marocchino. Non diventerà mai un italiano, non diventerà mai un ragazzo integrato, non farà mai parte della società. Rimarrà a Porta Palazzo, tra quei quattro quartieri, è finito. Io sto cercando di costruire qualcosa con un gruppo musicale, che si chiama Couscous Clan. È un gruppo di tre ragazzi stranieri, nati e cresciuti in Italia, a differenza di uno di noi che non è nato qua, però è cresciuto qua, conosce bene i disagi, le problematiche dei ragazzi immigrati. Facciamo musica per portare fuori questo messaggio dalle barriere della periferia. Vogliamo portarlo all'esterno, far capire che la periferia oppure i ragazzi che vedono arrabbiati per le strade non sono solamente violenza o disagio, ma sono ben altro. Porta Palazzo è un quartiere cattivo, lo descrivono così i torinesi. Un quartiere allo sbando, dicono polizia e forze dell'ordine. Meglio non entrare, mi consiglia un signore. Eppure Porta Palazzo è anche risorsa. La pensa così Don Domenico Cravero, un prete da anni impegnato sulla strada e che da anni lavora coi giovani e con il disagio giovanile. Salah la pensa allo stesso modo, è un nordafricano, aveva 9 anni quando i suoi genitori hanno scelto di venire a vivere in Italia. Quartiere Barriera di Milano, stessa storia di Porta Palazzo, stessi problemi. Dentro il ghetto, fuori i torinesi che si sentono presi d'assedio. E così Salah cresce e sceglie la musica per parlare, per raccontarsi, per sognare. Mi chiamo Salah, ho 18 anni, sono qua in Italia dall'età di 9 anni. Sono cresciuto qui in Barriera, Porta Palazzo. Ora abito in un'altra zona, in zona centro, però io il maggior tempo l'ho passato lì, e quindi... Per te, diciamo, essere arrivati a Torino in Porta Palazzo ha significato svoltare nella tua vita? Cioè, ci puoi raccontare cos'è stato arrivare a 9 anni a Porta Palazzo? Sì, all'inizio è stato un po' difficile perché è cambiato un po' tutto, perché io magari quando sono arrivato non mi aspettavo una vita così. Cioè l'inizio è stata dura, sia nel modo dove abitavamo, in altre cose. Le difficoltà sono state incontrate, non mi sono integrato subito, e quindi... E adesso la musica che ruolo sta giocando? Cioè ti sta tirando fuori? Sì, mi sta dando è la mia arma per farmi sentire. Occasioni perdute qui in periferia se ne incontrano tante. Hanno il viso sfatto dalla droga e segni di un disagio giovane che per alcuni è lettera morta, ma per altri è qualcosa che va accolta, gestita e risolta. È accaduto a Davide, 23 anni, 0 possibilità e oggi invece un diploma, un'iscrizione all'università, un lavoro. Io ho dovuto scegliere, ero di fronte a un bivio personale, avevo 16 anni, 17, e ho crisi esistenziale dei tipici ragazzi adolescenti e ho deciso di cambiare vita. Da lì ho colto delle occasioni che poteva essere la parrocchia Santi Apostoli, ho conosciuto delle persone, ho passato un anno veramente difficile tra lotte con i miei vecchi amici che tuttora vedo, rispetto, che ci amiamo come fosse veramente 10 anni fa, quindi non c'è nessun tipo di rancore o di pregiudizio, non penso che loro siano cretini o inferiori e né io un grande o migliore di loro, ma quando decisi di cambiare vita c'era stato una gran persona, una gran figura che si chiama Luigi e che tuttora rispetto, credo che rispetterò in tutta la mia vita e che gli devo dei grazie perché mi ha aiutato moltissimo. Non mi ha aiutato con soldi o col lavoro, mi ha dato semplicemente forse la fiducia e la speranza di cui avevo bisogno per cercare di cambiare vita. Luigi, del quale parla Davide, lavora alla cooperativa Mirafiori Sud ed è un riferimento per molti, così come Marco, Ciro e tutti quelli che ogni giorno si mettono in strada e si mettono in gioco. La periferia è un luogo dove le persone possono smarrirsi, soprattutto quando si perdono i cardini sociali come il lavoro. Così la famiglia entra in crisi, ci racconta Don Domenico Cravero, da anni impegnato nella periferia torinese. In questo momento la metropoli, l'area metropolitana di Torino è molto segnata dalla crisi. Ovviamente molto segnati dalla crisi del lavoro e questo è un primo grosso problema. La crisi del lavoro riguarda l'ambito familiare, ci sono quindi famiglie il cui unico reddito proviene da un contratto di lavoro atipico che non prevede ammortizzatori sociali, ci sono famiglie che rischiano la perdita dell'abitazione a causa dello sfratto, possono essere famiglie con entrambi i coniugi occupati in aziende in crisi. E così succede che la famiglia da sostegno si trasformi in trappola, luogo di conflitto. Don Domenico è sulla strada e da anni lavora coi giovani e con il loro disagio. Attraverso questo lavoro di strada noi abbiamo così realizzato anche un piccolo giornalino col quale si cerca di dare voce ai ragazzi, perché uno dei miei obiettivi è quello di fare emergere dal sommerso le difficoltà che i ragazzi vivono e farle diventare comunicazione tra i pari, riuscire a creare attraverso il lavoro di strada degli eventi comunicativi, cioè di riuscire a fare incontrare le generazioni e non soltanto il gruppo dei pari, ma i giovani insieme ai ragazzi, insieme agli adulti, insieme alle famiglie, per affrontare insieme i problemi, no? Che possono essere problemi di disagio familiare, problemi di difficoltà di inserimento e così via. E il secondo momento consiste nel rendere queste storie di vita attraverso eventi che possono anche essere spettacoli, possono essere, io le chiamo performance estetiche o culturali, in modo che ciò che le persone vivono in uno stato sommerso, ecco, possa diventare comunicazione pubblica. Dalla scrittura nasce un giornale che diventa un modo per parlare ai genitori e alla fine anche i genitori scelgono di parlare coi propri figli, perché qui, come in ogni luogo periferico del mondo che si rispetti, nella foga di sopravvivere alla crisi e alla quotidiana fatica si devastano gli equilibri familiari e salta la comunicazione. La regola del quartiere l'ha detta la strada, ma la strada da qualche anno è abitata da strani figuri che invece di giudicare tendono la mano e senza retorica, senza pregiudizi, si mettono in gioco e spesso il gioco funziona. E i ragazzi riprendono a sognare come dovrebbe essere sempre.